in primo piano. Buongiorno da Elisabetta Fiorito, in regia Alessandro Chiappini, per questa rassegna stampa. Intanto saluto subito l'ospite di oggi, Massimo Leoni, editorialista politico e commentatore di Sky TG24. Grazie Massimo per essere con noi, buongiorno. Elisabetta, buongiorno a voi. E leggiamo i titoli dei giornali che si concentrano soprattutto su Renzi e sugli incontri con Draghi e Napolitano e soprattutto sull'andamento dell'economia. Agenda riforme d'Europa, Sole 24 Ore, Renzi da Draghi e Napolitano, decreto sblocca Italia, demanio e partecipati, entrano i privati. Questo il Sole 24 Ore, il nostro giornale. La spinta di Draghi e Napolitano sul Corriere della Sera, i due incontri di Renzi al centro, il rilancio dell'economia. Il Corriere della Sera, Libero, grandi manovre, incontro segreto con Draghi, bacio della pantofola al colle, Renzi in difficoltà, cerca sponde per non essere rottamato, ma così finisce commissariato. Questo Libero. La Repubblica, doppia apertura, Renzi e Draghi, patto sulle riforme, vertice con il colle, questa è la prima apertura. E poi Simone, il reporter italiano morto per raccontare Gaza. La Stampa, riforme, Renzi rassicura Draghi, colloquio anche con Napolitano su economia, giustizia e crisi estere. Il Messaggero, Renzi con gli USA, asse anti-rigore, crisi, il Premier vede Draghi e Napolitano, riforme veloci, più flessibilità in Europa. Il Foglio apre invece sul totem, ci ha già sbancato, sull'articolo 18. C'è posta per Renzi, il Fatto Quotidiano, la UE, l'Expo, così non va. Mentre il Presidente del Consiglio scommette tutto sull'esposizione 2015, e deride la Commissione, ecco un nuovo richiamo. Lavoro in ritardo, padiglione europeo a rischio. Gli arabi riducono gli investimenti, la Germania si porta l'energia elettrica da sola. Il Giornale, basta clandestini, l'immigrazione fa ricca la mafia, la criminalità organizzata sfrutta i disperati disposti a tutti, smerciano prodotti contraffatti, così i boss incassano milioni e si distrugge il Made in Italy. Sentite sempre, come dico ogni mattina, scorrere le pagine dei giornali cartacei, questa rassegna stampa old style. La Gazzetta dello Sport, azzurro Conte, un sì da 3,6 milioni grazie allo sponsor si può, e sarebbe il primo CT che viene dal sud. La Padania, licenza di abusare, Salvini contro il prefetto di Roma, pazzesco proporre licenze provvisorie per i venditori abusivi dei mercatini. Il Manifesto, tregua da morire, gli ordigni israeliani uccidono, a Gaza ieri ha trovato la morte Simone Camilli, un reporter italiano di 35 anni. Con il suo traduttore e gli artificieri impegnati su una granata lanciata su Gaza. Poi Avvenire, il Papa, l'ONU fermi le violenze in Iraq. Il Giorno, crisi, Renzi da Draghi, vertice segreto dopo il duello sulle riforme. Poi il Premier riferisce a Napolitano, intervista al Financial Times, largo agli investitori esteri. Il Secolo, XIX, truppe USA contro le stragi, Iraq, Obama pronto al blitz via terra. E l'Italia chiede un'azione forte, Gaza, morte in prima linea, e quindi c'è la foto di Simone Camilli. Questi i titoli dei giornali, insomma una situazione non rosea per l'economia italiana ed europea. Massimo, che impressione hai avuto di questi due incontri che si sono succeduti tra il Premier Matteo Renzi e invece poi subito dopo da Napolitano? La situazione è così grave? Ma la situazione è sicuramente urgente dal punto di vista delle politiche economiche e in generale delle politiche che il governo Renzi intende implementare adesso a fine estate, insomma con l'inizio della nuova stagione. I due incontri sono incontri fondamentali, sono i due riferimenti di Renzi per quello che riguarda da una parte le politiche europee, quindi Mario Draghi, dall'altra quelle anche interne, e c'è un profilo istituzionale, diciamo, di governo negli incontri, e ce n'è uno anche squisitamente politico, di cui, per quello che so, si è parlato pure nell'incontro con Napolitano, e cioè, per esempio, parlo della possibile ampliamento della maggioranza di governo ai berlusconiani, a Forza Italia, che sarebbe stato dal premier escluso anche in questa fase particolarmente difficile, nonostante le offerte più o meno generose e interessate di Forza Italia. Brunetta ogni giorno scrive sul suo mattinale, insomma, in buone intenzioni nei confronti di questa nuova alleanza. Quindi situazione è urgente, l'economia, lo ricordavi tu Elisabetta, non è florida e il problema non riguarda soltanto l'Italia, c'è un problema di sviluppo in generale in Europa, c'è un problema di deflazione che si fa via via più grave, e io penso che questo sia stato una delle cose al centro dei colloqui con Mario Draghi, e che servivano anche per diminuire un po' quella polemica sulle riforme, sulla paternità delle riforme che era venuta fuori dal discorso, dall'ultimo discorso di Draghi la settimana scorsa. Insomma, io penso che su questo si sia chiarito, e poi magari su questo ti dico un'altra cosa che è una mia idea, se abbiamo tempo più tardi. Allora, agenda riforme d'Europa, Renzi da Draghi e Napolitano, spending review, crescita, si scrive sul Sole 24 Ore, credito alle imprese, sono i temi al centro dell'incontro che il premier Renzi ha avuto a sorpresa martedì in Umbria con il presidente della BCE Mario Draghi. Per Renzi l'Italia non è sorvegliato speciale, il premier è andato ieri a conferire con il capo dello Stato Napolitano. In agenda riforme d'Europa intanto prende forma il decreto Blocca Italia, spazio ai privati in demanio e partecipate. Vi ricordo il numero dei vostri sms 349-238-6666, ma io non riesco a capire dove è andato poi esattamente Matteo Renzi. Si favoleggia su questo arrivo in elicottero a Città della Pieve su tutti i giornali, in cui praticamente Matteo Renzi ha incontrato non Manuela Arcuri, ricordiamo protagonista della famosa serie Carabinieri in onda su Canale 5 un po' di anni fa, ma ha incontrato il governatore della BCE Mario Draghi. Sul nostro giornale è importante anche un editoriale, l'illusione del rigore sostenibile, Eurozona senza crescita, di Alberto Quadrio Curzio. L'Europa non avrà un ferragosto economico buono perché deluderanno i dati sul PIL dell'Eurozona di oggi. Infatti è quasi certo che crescita del PIL nel secondo trimestre 2014 subisca una frenata sino a passare in territorio negativo. La settimana scorsa l'Italia ha registrato un calo del PIL trimestrale e adesso il ribasso toccherà anche la Germania, accentuando le preoccupazioni per la non ripresa nell'Eurozona. L'Italia non deve però consolarsi né porre troppa enfasi sulla nostra produzione industriale di giugno, che è andata meglio di quella dell'Eurozona e della Germania. Un altro articolo che vi segnalo sempre sul Sole 24 Ore è l'analisi sul debito pubblico, che ricordiamo è salito a 2.168 miliardi, di Isabella Bufacchi, e che propone quella che è la ricetta del Sole 24 Ore per ridurre il debito. Il mattone bond da 60 miliardi, un ritocco contabile su FSF bond da 45 miliardi, privatizzazioni e calo strutturale con avanzo primario per 100 miliardi. Queste sono un po' le ricette del nostro giornale, e anche un articolo di Alessandro Merli. L'incontro non era inserito nell'abituale agenda pubblica dei membri del direttorio della BCE, come avviene invece regolarmente per le riunioni bilaterali del presidente con altri capi di governi europei. Questo è il nuovo corso di Città della Pieve, questo incontro un po' in questo casale di campagna di Mario Draghi, criticato, no? Dal punto di vista europeo, infatti da Francoforte rigido no comment. Ecco, Mario Draghi, Massimo Leoni, Mario Draghi insomma ha un po' fatto qualcosa che generalmente un governatore della BCE non fa, cioè incontrare a casa sua un capo di Stato europeo. Beh sì, Draghi deve stare molto attento a queste cose, perché in sede europea poi difficilmente sarà perdonato nel caso in cui poi i risultati non siano quelli che si aspettano a Bruxelles, Francoforte e dintorni. Insomma, Draghi è sempre sotto il mirino dei falchi, soprattutto tedeschi, perché la sua italianità non venga fuori nel suo ruolo eccessivamente, particolarmente delicato da presidente della BCE. Quindi questo è un argomento. Volevo però dire una cosa, la questione delle riforme e sulla cessione di sovranità, no? L'Italia è stato sempre un paese a vocazione federalista per quanto riguarda la visione dell'Europa. C'è stato questo irrigidimento negli ultimi giorni rispetto a un'affermazione che dal nostro punto di vista storico doveva essere positiva, cioè di fare in modo che le riforme si decidessero e fossero in comune all'intera area dell'UE. Per riforme ovviamente si intende una serie di cose molto ampia, parlo per esempio dei sistemi fiscali, tanto per dirne una. Ecco, questa cosa teoricamente è la premessa per fare un'altra cosa che all'Italia dovrebbe stare molto a cuore, e per esempio mettere a comune perlomeno una parte del debito o della spesa pubblica che serve in questo momento come l'aria per dare un po' di volano di sviluppo all'Europa. Ecco, questa polemica sull'argomento forse poteva essere sfruttata meglio a dire: l'Italia è favorevole a che si discuta insieme delle riforme, però discutiamo insieme anche di altre cose che a noi stanno particolarmente a cuore, appunto come quella di una spesa pubblica europea e quindi dei famosi eurobond, in cui diciamo ci esercitiamo da anni in discussione, ma che sono molto di là da venire. Poteva essere una buona leva e secondo me non è stata sfruttata sotto questo punto di vista, è stato visto invece come un impedimento all'Italia, una minaccia all'Italia della famosa troica di cui si favoleggia. Allora, intanto leggiamo qualche sms dei nostri radioascoltatori. Renzi ha un asso nella manica per lo sblocca Italia, scrive Vincent, lo svitol. Allora, ma il PIL può essere considerato un indice attendibile, chiede Paolo, e le agenzie di rating a chi servono? Perché non parlate di banche? Paolo, noi leggiamo in questo momento i giornali, quando si parla di banche riferiamo quello che dicono i giornali, e sicuramente anche sulle banche, sappiamo tutti, sul decreto IMU, Banca Italia, ci sono state molte proteste. Allora, leggendo il Corriere della Sera, 3 ore di incontro a Castel Porziano, dai conti pubblici al lavoro, le misure necessarie per il rilancio. Oltre 2 ore, questo è il Corriere della Sera, l'altro ieri con Mario Draghi, in segreto, ma non troppo, visto che alla fine l'elicottero del Presidente del Consiglio difficilmente passa inosservato, anche in mezzo alla campagna umbra, dove il governatore della BCE passa le sue vacanze. E almeno 3 ore ieri sera con Giorgio Napolitano nella tenuta presidenziale di Castel Porziano, questa volta senza alcun segreto. La triangolazione assume, pur nel riserbo quasi assoluto che circonda i due incontri, il valore di un passaggio di boa. Questo scrive Marco Galluzzo. Draghi e Renzi si chiariscono eliminando presunti dissapori dei giorni scorsi, ma resta sullo sfondo la preoccupazione congiunta per l'economia italiana. Vista da Francoforte o da Palazzo Chigi, la situazione dell'Italia resta comunque critica, drammatica per molti versi e molti settori, secondo l'ammissione dello stesso Premier. L'incontro con il Capo dello Stato aggiunge i consigli e le valutazioni della prima istituzione del Paese, sin qui Renzi è sempre stato accompagnato da una sintonia quasi totale con il Colle. La difficoltà dell'economia reale, che non accenna a riprendersi, aggiunge al bilancio della stagione i primi 5 mesi di governo una prospettiva diversa dal passato. Ecco, Massimo, 2 incontri, come dicevamo, che manifestano una difficoltà. Una domanda prima di dare la linea alla regia, un po' superficiale ma non troppo: era necessario andare con l'elicottero a Città della Pieve? Insomma, bastava una macchina da Roma, non è così lontano. Questo show renziano era necessario secondo te? Ma non ho idea delle motivazioni logistiche che hanno portato il Premier a recarsi in quel posto in elicottero. Non lo so, certo che se uno vuol passare inosservato, completamente inosservato, non va in elicottero nella campagna umbra, insomma, questo mi sembra evidente. Però l'importante è che l'incontro ci sia stato, e ripeto, i due incontri uno dopo l'altro segnalano un'urgenza, il desiderio di Renzi anche di trovare, diciamo, una copertura politica e istituzionale al suo ruolo, alle cose sicuramente importanti e fondamentali che deve fare all'inizio della nuova stagione. Quindi il colloquio sul fronte, diciamo, economico europeo con Mario Draghi e quello invece sul fronte interno con Napolitano segnalano la voglia di andare avanti con una copertura istituzionale sia italiana che europea, e sicuramente in questi incontri si è parlato di cose concrete da fare. Voglio ricordare un'ultima cosa: Elisabetta, ieri all'Expo Renzi ha insistito ancora su quella che secondo lui io credo sia una leva fondamentale, perché in assenza di possibile spesa pubblica ulteriore che cosa può arrivare all'Italia? Gli investitori esteri, si comincia a muovere qualcosa. Io penso che questa insistenza e la vetrina dell'Expo siano una leva fondamentale, perché questo strumento sia attivato in tempi brevi e che possano fare bene alla nostra economia anche in quanto a posti di lavoro. Ecco, questo sicuramente è uno degli argomenti su cui il governo Renzi sta puntando molto ultimamente. C'è un articolo sul Corriere della Sera che il debito pubblico che continua ad aumentare, mentre dalla produzione industriale e dalla cassa integrazione emergono segnali di un lento miglioramento dell'economia. Secondo Banca Italia, a giugno il debito pubblico ha toccato il nuovo record di 2.168,4 miliardi, dovuto anche al pagamento dei debiti arretrati della pubblica amministrazione. Quindi pesano i pagamenti arretrati alle imprese. Questa è la tesi dell'articolo di Francesco Di Frischia sul Corriere della Sera. In un altro invece argomento, che è il tormentone dell'estate, lo troviamo sull'editoriale di Maurizio Belpietro, articolo 18, un totem che fa fuggire le aziende all'estero. Per Maurizio Belpietro, a differenza di quel che ha detto Matteo Renzi nel dibattito sull'articolo 18, non c'è nulla di ideologico, ma c'è tutto di pratico. In un paese che ha il 13% di disoccupati e dove la cassa integrazione non è usata come ammortizzatore sociale momentaneo, ma come strumento per mantenere finta occupazione, con il paradosso che ci sono lavoratori che stanno in cassa integrazione da 20 anni e diventano pensionati, continuare a sostenere che un dipendente non può essere licenziato non è solo antistorico, ma significa non aver capito nulla di ciò che sta succedendo in giro per il mondo. E continua Maurizio Belpietro: se il 67% del Made in Italy non è fatto in Italy ma a Tirana, Tunisia, Marocco, altrove, una ragione c'è, anzi le ragioni sono tante, si chiamano tasse, burocrazia, tutele, sindacali eccessivo. Non c'è imprenditore che in privato non riconosca come i vincoli che gli impediscono di cacciare i fannulloni siano un ostacolo alle nuove assunzioni. Ecco, c'è un governo diviso su questo, c'è il PD da una parte, Massimo, e il nuovo centrodestra dall'altra. Ma sì, non mi toglie dalla testa nessuno che le dichiarazioni di Alfano e dell'NCD abbiano, diciamo, almeno una parte di motivazione nel volersi distinguere da un alleato ingombrante e potente che in questo momento è il PD. Anche perché sennò non si capisce come alla vigilia, diciamo, di una discussione più generale, importante, che riguarda il Jobs Act nella parte che in realtà si dipanerà come un disegno di legge delega, in cui sicuramente si dovrà parlare anche di modalità licenziamento, quindi l'articolo 18, si tiri fuori quello che Renzi ha, secondo me, abbastanza giustamente chiamato totem, perché poi la riforma del mercato del lavoro poi in Italia si semplificano con articolo 18 sì, articolo 18 no. Ecco, c'è una parte sicuramente politica, c'è una parte che riguarda effettivamente una flessibilità del mercato del lavoro che, pur essendo stata molto ampliata negli ultimi anni, forse paga ancora qualcosa rispetto ad altre, diciamo, democrazie economiche che noi chiamiamo o riteniamo un po' più avanzate. Però io credo che abbia ragione Renzi in questo quando dice che la discussione va inserita in una più ampia riscrizione dell'intero statuto dei lavoratori. Di questa c'è bisogno. Un esempio può essere il contratto a tutela progressiva, seppure a tempo indeterminato, di cui si parlava all'inizio di questa stagione di governo e poi appunto è sparito in questo disegno di legge delega, che è evidentemente un lavoro complesso. Però ecco, deve essere inserito in una discussione secondo me più ampia. D'altra parte c'è una larga parte degli imprenditori, anche di Confindustria fino a qualche anno fa, che ha sempre ritenuto che non fosse questo poi il problema fondamentale. Adesso anche dalle parti di Confindustria, non me ne volete se parlo del vostro editore in qualche modo, c'è la voglia di concentrare il fuoco su un simbolo, insomma, tutto sommato, che è ancora sicuramente l'articolo 18 è ancora un simbolo per la legislazione del lavoro in Italia. Allora, intanto sull'articolo 18, assolutamente liberi i nostri commentatori di dire tutto, Massimo. No, perché, è un dibattito perché, che è aperto anche dentro, secondo me, gli imprenditori, no? È un tema in cui ci sono degli imprenditori, la maggior parte però, diciamolo, su questo ha ragione Belpietro, la maggior parte degli imprenditori vorrebbe un mercato dove non ci fosse questa tutela così opprimente, no? Da una parte, però quello che scrive Stefano Lepri è un pochino quello che dicevi tu, Stefano Lepri, sulla stampa. Comincia male il dibattito sulle grandi riforme se si parte dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Per la sinistra è un totem intangibile, per la destra è un feticcio da abbattere. Ma nell'analisi di Banca Italia ha scarso peso macroeconomico. Scontrarsi su quello che ci fa dimenticare perché abbiamo bisogno di una profonda riforma del mercato del lavoro. Facile sospettare che si tratti del solito giochetto di schermaglie politiche. Argomenti che dividono gli avversari, compattano gli alleati. Poca importa che, aggredendo da quel lato una materia così delicata, si rischi un braccio di ferro alla fine del quale non cambierebbe nel concreto dell'economia nulla ai risultati di schieramento che si mira. Allora, sempre sulla stampa ci sono due interviste, oltre ovviamente contrapposte. Una è quella del segretario della CISL Raffaele Bonanni, sia la revisione ma le regole si scrivono con il sindacato, siamo pronti a discutere di tutto, mentre l'altra è di Maurizio Sacconi del Nuovo Centrodestra, sull'occupazione Renzi e Nuovo Centrodestra vanno nella stessa direzione, il Premier sembra più avanti del PD. Quello che in sostanza la tesi di Maurizio Sacconi è che poi alla fine Renzi non ha proprio risposto, ha detto un totem ma non è ha detto lo voglio abolire oppure no, questo è sembrato, Massimo. Ma sì, Renzi appunto ha inserito questo argomento in una discussione molto più ampia e, come ti ho già detto, secondo me ha fatto molto bene. È chiaro che da destra Renzi viene visto come un potenziale cavallo di Troia all'interno di una sinistra che su certi argomenti sarà sempre un po' riottosa, insomma. È evidente che c'è il tentativo di identificare, anche di mettere alla prova la figura di Renzi come figura, diciamo, anomala all'interno dello schieramento di sinistra. Renzi ha già ampiamente dimostrato di essere questa figura anomala sotto molti punti di vista. L'assito lanciato sull'articolo 18 serve anche a questo, cioè da una parte mettere alla prova Renzi come un vero innovatore, quasi non di sinistra, e dall'altra dare identità, diciamo, a fare una battaglia identitaria che poi appunto, lo scriveva Lepri, con cui sono contento di essere d'accordo, serve a dare identità, coesione e anche magari qualche numero in più a uno schieramento che finora è un po' imbarazzato tra questa forza attrattiva ancora di Forza Italia, che per massa critica ancora lo sovrasta, e quella è la paura di rimanere, diciamo, identificato con un governo di centrosinistra, insomma, questo è un po' il problema lì. Allora andiamo agli sms dei nostri radioascoltatori. Ci scrive Lidiano da Ravenna: un imprenditore può cacciare un fannullone come quando vuole, si chiamano sanzioni disciplinari, solo che bisogna lavorare per usarle come si deve, il resto sono scuse. Poi, a Costituzione vigente, scrive un altro radioascoltatore, il primo ministro non dovrebbe andare a baciare la pantofola al capo dello Stato. Un altro radioascoltatore un pochino ironico dice: Renzi dalla bici all'elicottero blu. e poi 100, in effetti è quello che ci chiedevamo, no? 100 miliardi di aumento, no, 100 milioni, scusa, di aumento del debito in 6 mesi, le giustificazioni della stampa su Renzi sono patetiche, un altro radioascoltatore. Il totem ci ha già sbancato, scrive Il Foglio, inutile discutere dell'articolo 18, dice Renzi, certo per Ichino il premier cambierà tutto lo statuto, ma il benaltrismo ventennale sui licenziamenti ci è già costato aziende ingessate, apartheid occupazionale, welfare monco. Questo è Marco Valerio Loprete sul Foglio. Allora, un altro editoriale che segnalo è quello di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, che con la sua penna pungente se la prende con Angelino Jolie, lo chiamano, con il nostro ministro dell'interno, e fa riferimento addirittura a poco più di 25 anni fa moriva Mario Melloni, alias Fortebraccio, ferocissimo corsivista dell'Unità. Gli sarebbe piaciuto, dire Angelino Jolie, per trovare un concentrato di niente, scrive Marco Travaglio, un tale cervello sottovuoto spinto. Fortebraccio era costretto ad assemblare le cervici di decine di politici democristiani e socialdemocratici. Oggi Alfano gli semplificherebbe il lavoro. Da solo fa contemporaneamente le veci di tutti i principali bersagli della sua satira. Il dramma è che la sua inconsistenza, limiti dell'inesistenza, danneggia invariabilmente chiunque lo circondi. E qui dice, dopo una breve parentesi nella DC, non a caso da lì poco estinta. Nel 94 si iscrisse giovanissima a Forza Italia. Poi è diventato ministro della giustizia nel 2008, insomma un editoriale molto molto feroce contro il ministro dell'interno, che è finito nella polemica sia per l'articolo 18 sia per questa polemica dei Vucumpra. Ecco, in questo secondo te c'è uno scontro feroce all'interno del governo e c'è un tentativo del cavaliere di Silvio Berlusconi di dare questa sponda sull'economia e quindi di vendicarsi così di quello che lui giudica poi un po' i traditori, no? Quelli del nuovo centrodestra, Massimo? A Travaglio è un grande distruttore, non competo assolutamente con lui, diciamo, con la sua penna. Dunque, ma io credo che lo scontro all'interno del governo, l'ho già detto prima, sia molto strumentale e non avrà alcun tipo di conseguenza, per un semplice motivo: NCD non ha nessun'altra alternativa che rimanere saldamente dentro al governo per poi, in caso di successo, diciamo, prendersi dei meriti in sede elettorale se e quando andremo a votare. D'altra parte, che questa sia, diciamo, la strada buona, per così dire, lo testimonia proprio quello che dicevi tu, cioè l'atteggiamento negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, dello schieramento berlusconiano, di Berlusconi in persona, nei suoi colloqui diretti col Presidente del Consiglio, ma anche delle persone, dei politici a lui più vicini. E per esempio mi riferisco, l'ho già fatto prima, a Renato Brunetta, che dà, diciamo, coscienza ultra critica del governo, a cui non lascia passare niente, però in qualche modo negli ultimi giorni si è messo anche lui a disposizione per una santa alleanza che dovrebbe rafforzare l'azione di governo in caso di una estrema necessità economica. Da parte di Berlusconi è chiaro che dopo l'assoluzione sul caso Ruby c'è una nuova voglia, diciamo, di protagonismo. Da quelle parti si dice che si stia aspettando soltanto la Corte di Strasburgo che lo rimetterebbe in campo per le nuove elezioni, e c'è la voglia di rientrare, diciamo, nel gioco politico. Quindi tutte e due queste cose esistono. Però io non credo che NCD alimenti fino a una rottura, diciamo, i rapporti interni alla maggioranza. Io questo non lo vedo assolutamente improbabile. Allora, intanto segnalo un articolo su Repubblica di Rodolfo Sala sulla visita ai cantieri dell'Expo, una ripartenza per il paese, l'inaugurazione, un no Goofy Day, e poi un'intervista soprattutto sui parametri della UE con il premio Nobel americano Michael Spence, di Eugenio Corsio, sempre su Repubblica. I nuovi preoccupanti dati su Germania e Francia sono l'ultima decisiva conferma. L'Europa deve mettere da parte le divisioni decisioni, varare una serie di deroghe, magari transitorie, alle rigide regole fiscali vigenti e intraprendere tutti insieme un cammino di crescita basato su nuovi investimenti e sul rilancio della domanda con misure di alleggerimento tributario. Quindi basta con i muscoli dei parametri UE, servono meno tasse e più investimenti. Ecco, voglio rispondere subito ad Antonio che ci ha mandato un SMS. Ma vi rendete conto che se non si dismette quasi tutto il patrimonio pubblico siamo destinati a peggiorare, il debito pubblico continuerà ad aumentare, di conseguenza le tasse, tutto il resto è noia. Antonio, è proprio così. Ricordo allora proprio un articolo sul nostro giornale di Isabella Bufacchi che dice: il primo passo è la privatizzazione concentrata soprattutto nel mondo delle municipalizzate. Un taglio da 200 miliardi possibile con tre mosse. Come ridurre il debito che è arrivato, ricordiamo, a quota 2.168 miliardi sul Sole 24 Ore. Noi passiamo a parlare di esteri perché tutte le pagine sono piene di questa notizia, di questo fotoreporter che purtroppo ha perso la vita a Gaza leggiamo tra tutti i giornali, abbiamo scelto l'articolo di Maurizio Molinari, corrispondente da Gerusalemme per La Stampa, è italiano il primo reporter che muove a Gaza dall'inizio dell'attuale conflitto fra Hamas e Israele, Simone Camilli, 35 anni, è un video reporter e lavora per l'Associated Press. Alle 9:30 del mattino incontra il proprio traduttore palestinese per andare a realizzare un video sul campo di calcio a nord della striscia, dove la polizia di Gaza raccoglie gli ordigni inesplosi segnalati dagli abitanti. L'appuntamento di Camilli con gli artificieri è per le 10, con loro c'è anche un altro fotografo. La polizia accatasta qui gli ordigni perché è un luogo poco distante dal suo quartier generale. Gli artificieri sono militari scelti appartenenti ad un'unità guidata da Hamas e il problema è che l'impegno al mattino è una bomba inesplosa di un F-16, è un ordigno da mezza tonnellata e a coordinare il tentativo di neutralizzazione è il capo dell'unità a nord di Gaza, che ammette la difficoltà, ma qualcosa va male. Quindi 35 anni, Simone Camilli, abbiamo sentito anche nei GR le parole del padre, anch'egli giornalista: sono orgoglioso di mio figlio. Una granata da carro armato inesplosa, si scrive poi su Repubblica, un team di artificieri palestinesi che provano a disinnescarla, un video reporter italiano che li riprende, ma qualcosa non ha funzionato. Ieri mattina nella parte nord della striscia e una terrificante esplosione ha colpito in pieno tutti i presenti. È morto così Simone Camilli, 35 anni, romano, videomaker che lavorava da anni per la Associated Press, primo giornalista straniero a morire a Gaza in questo conflitto, ucciso dalle schegge della granata. E anche sul nostro giornale Sole 24 Ore c'è un articolo di Ugo Tramballi, muore un giornalista italiano, ma quello che leggiamo invece, e cambiamo argomento sempre passando agli esteri, è: così è nato il nuovo terrore islamico, chi c'è dietro il movimento erede di Al-Qaeda che punta a dissolvere Siria e Iraq, il califfato di al-Baghdadi. Un articolo di Alberto Negri che spiega chiaramente che cosa è successo. Il califfato è stato presentato come una legione straniera islamica, è una visione parziale, le stime parlano di 20.000 uomini armati, insufficienti a prendere città come Mosul, minacciare il Kurdistan, puntare verso Baghdad e stringere d'assedio Aleppo in Siria. Il califfato ha aperto 5 fronti, quindi dice: com'è possibile? Il problema è che al-Baghdadi ha sfruttato abilmente il caos iracheno, come aveva già fatto prima, saldando la guerra siriana e quella irachena in un unico campo di combattimento. Ma le vere cause della rivoluzione sunnita sono state la corruzione e le politiche discriminatorie di Baghdad, una formidabile propaganda gratuita a favore dei jihadisti nelle province di al-Anbar e soprattutto l'appoggio degli ex-Baathisti, che hanno dato una mano. Lo dimostra il messaggio caloroso rivolto agli jihadisti con cui è riaffurato alle cronache il braccio destro di Saddam Hussein. Quindi questo desiderio di rivincita dei sunniti, una minoranza che prima deteneva tutto il potere nelle forze armate e nell'intelligence, e che praticamente sta dando una mano a, proprio al Baghdadi. Quindi ci sarebbe il partito Baath, il partito di Saddam Hussein. E segnalo anche un'intervista al giornalista che intervistò Bin Laden sul caos iracheno, Peter Berger: la crisi durerà a lungo, il futuro del cristianesimo è a rischio nel Medio Oriente, perché vediamo sempre di più aumentare i crimini contro i cristiani nel Medio Oriente. Ora, altro tema invece è, andiamo ad alleggerire la nostra rassegna stampa su una cosa che purtroppo bisogna denunciare, perché è un altro di quegli scempi italiani. Dedicano alcuni giornali articoli su questo tema, perché è stato rubato un guercino in una chiesa senza antifurto. E questo, diciamo così, è un altro caso per noi di cose assurde che avvengono durante l'estate. Facile come rubare le monetine nella cassetta delle elemosine, troppo facile. Ma due notti fa i soliti ignoti dalla chiesa di San Vincenzo in corso Canal Grande a Modena non hanno rubato una manciata di euro, ma qualcosa di più prezioso: un capolavoro del Guercino del 1639, la Madonna con i santi Giovanni Evangelista e Gregorio Taumaturgo, un olio su tela di 293x184 cm. L'opera è valutata dagli esperti intorno a 6 milioni di euro. È stato il parroco Don Giovanni Gherardo ad accorgersi del furto e a dare l'allarme alla polizia. Una beffa. La chiesa che ha subito il furto sacrilego, situata nel centro di Modena, si trova a poco distanza dal tribunale, ma i ladri non badano a certe sottigliezze. C'è da dire che nonostante la chiesa custodisse un simile tesoro artistico, sorprendentemente l'opera non era protetta da un vero e proprio sistema di antifurto. Ecco, questa è la cosa gravissima su molti giornali c'è proprio l'accusa di sgarbi sul fatto che i nostri capolavori sono lasciati così assolutamente in modo irresponsabile. Allora, e anche qui sempre sul Corriere della Sera, questa volta parla proprio Vittorio Sgarbi: il valore artistico è immenso, anche quello materiale. Per Vittorio Sgarbi è un'opera monumentale della prima maturità del Guercino e può valere tra i 5 e 6 milioni di euro. Dalla chiesa di San Vincenzo nel centralissimo corso Canal Grande a Modena è stata rubata nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 l'imponente tela del Guercino Madonna con i santi Giovanni Evangelista e Gregorio Taumaturgo. A scoprire il furto è stato il parroco ieri alle 13. Con tutta probabilità i ladri si sono nascosti lì in serata, lavorando poi indisturbati e uscendo con la tela a tarda notte. Nessuna allarme ha funzionato. Com'è possibile che le soprintendenze abbia permesso a un'opera così preziosa di rimanere senza sicurezza? E la sovrintendenza si sfila. La pala era custodita dalla curia. Insomma, è in atto poi uno scaricabarile tipico di questi momenti e di questi argomenti. Invece c'è una nuova teoria che troviamo sul Giorno sulla morte dei sub. Non è stata un'embolia l'ipotesi che ci fosse area sporca nelle bombole. La svolta dall'autopsia: saranno però decisivi i test tossicologici. Non c'è niente che giustifichi una morte improvvisa, né tantomeno una tragedia a tre che ha travolto Fabio Giaimo, Gianluca Trevani e Enrico Cioli. E così le autopsie eseguite ieri sui sui bacco uccisi domenica dall'immersione alle formiche lasciano solo spazio alla maledetta ipotesi di un'intossicazione da monossido di carbonio all'interno delle bombole caricate forse con aria sporca, circostanza che solo gli esami istologici e tossicologici potranno confermare. Altra notizia invece che appare sui giornali questa mattina e che è molto bella, e quindi vogliamo chiudere questa rassegna stampa con una notizia positiva, è che Mariam, regina della matematica, è la prima donna a vincere il premio più importante. Sono una pensatrice lenta, è una notizia che appare sulla stampa, è una notizia che appare anche sul Corriere della Sera, un articolo di Anna Mendolesi che ci racconta, era l'ultima fortezza tutta maschile dell'universo scientifico, la medaglia Fields, il più prestigioso dei riconoscimenti per l'eccellenza in matematica, viene assegnato ogni 4 anni ed è l'equivalente del Nobel. L'iraniana Marian Mirkzani è la prima donna ad entrare in questo club di super talenti che devono avere per statuto meno di 40 anni e lei ci racconta che dice di essere una pensatrice lenta, prende un problema apparentemente insolubile e lo doma con la perseveranza, osservandolo da punti di vista diversi e nuovi. Il momento più bello è quello della scoperta, la sensazione di essere arrivata in cima a una vetta e di godersi un panorama inviolato. Ma per la maggior parte del tempo, spiega Miriam Mirzakhani, fare matematica è per me come una lunga escursione senza un sentiero tracciato né un traguardo visibile. Spesso gli studenti prendono in antipatia equazioni e figure geometriche senza nemmeno provare a farsi sedurre. E la stessa Mirzakhani all'inizio non le amava. La bellezza della matematica si mostra solo a chi la insegue con pazienza. Da bambina voleva fare la scrittrice e dice che i problemi di matematica sono come i personaggi dei romanzi. Evolvono e quando li guardi di nuovo non assomigliano più alla tua prima impressione. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, vi do un saluto e soprattutto una buona giornata e linea GR a Irene Zerbini, una buona giornata da Elisabetta Fiorito.